Ma no, ti è arrivata la passione perché più andavi più imparavi, però non avevo mai imparato niente, perché io me ne sono andato che c'avevo ancora da imparare, tanto per cominciare, perché c'è, tutti i giorni c'è cose da imparare, in qualsiasi tipo di lavoro io penso, però a come ero io tutti i giorni imparavo qualcosa di nuovo. E così penso che siano tutti i lavori. A me me ne sono andato dal lavoro che mi è anche un po' dispiaciuto, perché era un lavoro che mi piaceva veramente tanto, mi piaceva fare il carrellista. E lo facevo con orgoglio, lo facevo. E a volte mi dicevano, dice, come fai dice, a fare un carico in 15 minuti quando gli altri ci mettono mezz'ora. Ma dicevo, a me non mi interessa, vuol dire che gli altri trovano difficoltà ad andare a prendere il materiale, e io quella difficoltà non la trovo, perché io quando ho una spunta in mano, cosa facevo? Sapevo già dove dovevo andare, sapevo già dove era la cassa, perché la cassa, quella cassa che io riprendevo, ce la mettevo io anche, magari il giorno prima, capito? Quando ero di sera, quando ero di notte, ce le mettevo io a quelle casse e sapevo già dove andare. Sì, io mi devo salutare per domani. Un po' dura. Buonanotte a tutti, vi ringrazio per la chiacchierata, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Anche io sono qui, ho messo la cosa, poi me la ricordo, l'ho messa. Ok, ciao. Se manda un altro operatore dice, no, cosa posso? Capito? La stessa cosa tua, quando tu ti prepari, come ti preparavi i pacchi per prenderli più semplicemente oppure per anticipare i tempi, la stessa cosa, ma quello ti viene spontaneo, perlomeno io parlo sempre di me, poi degli altri non lo so, ti viene spontaneo nel farlo, dipende anche da elemento, ecco, dai, se uno se ne frega del lavoro oppure se uno ci mette un briccio di attenzione, le cose diventano più naturali. Vediamo se è rientrato Gavino. Sì, sono qua. No, avevo, sembrava che mi stava dando un po' di cali di potenza, però sono, vediamo un pochino, proviamo a lasciarla così. Perché mi ho preso come punto di riferimento 50 watt e sto guardando una cosa, perché a volte vado in trasmissione non mi sta salendo, mi dà magari 40 e queste cose qua, e purtroppo sul lavoro c'è la teoria e c'è anche teoria e pratica si tengono per mano, perché io non credo che il tuo lavoro o anche il lavoro di Franco sia, come tutti i lavori siano fatti solo di pratica, c'è anche la teoria, perché tu anche l'altra volta mi stavi parlando di livelli, di misure, di quello, di quell'altro, e per sapere certe cose hai bisogno della teoria. Buonanotte a tutti, vi devo salutare. Vai Anto, vai, intanto abbiamo lasciato, cioè non ti abbiamo rilanciato perché ti ha rilanciato a Franco ma non hai ripreso e quindi si pensava che eri già a nanna. A te il mic, vai. Vi saluto, buonanotte a tutti in generale, ciao. Andare, ciao Anto, buonanotte, tante cose belle, dai, vai Franco. Scappa, ciao Anto, buonanotte. Buona giornata per domani, ci ascoltiamo. Avanti, Gavi. Sì, ciao Anto, buonanotte, dai, buon tutto per le prossime. Ciao ancora, buonanotte, riprenditi. Sì, vabbè, ritorno al discorso poc'anzi. Per quanto riguarda il mio ambito, parlo la teoria è la cosa primaria, Gavi, perché tutti si siedono con due leve, riescono a muoverlo, a giocarci, ma Il problema non è muoverlo, il problema è saper iniziare, ma soprattutto finirlo. Questo è quello che ho imparato io da ragazzo, ma soprattutto guardando quelli molto più bravi di me, perché io ho fatto una buona scuola con gente già avviata, già conosciuta, già nel mestiere, e che valorizzavano il proprio lavoro. Quindi non è neanche tanto, sì, mi dicevo, mi sposto, lo vai là, ok, lo spostavi, lo facevi, ma non è perché mi sono seduto ero già uno affermato del mestiere, no, ero uno che, come un picco pallino, che si siede e guida 2 metri la macchina e non può dire che è autista, ecco. Beh, esatto, è quello che dico io per quanto riguarda il mio settore. Non è perché uno prende e collega degli altoparlanti, vuol dire che li sa far funzionare nel modo migliore, oppure sa fare delle installazioni in una maniera ottimale. Quindi c'è la teoria, c'è in tutte le cose, non è che tu alzi il volume e biglie vuol dire che si intende vera cosa, no, c'è la teoria che devi seguire. Anche nel lavoro di Franco la teoria c'è, perché non è che puoi mettere un carico pesante, lo puoi mettere dietro il rimorchio e mettere il carico leggero davanti. Quindi vai Fra, ce l'ho diretto. Quello no, a parte che è un carico in un articolato, si parte sempre da davanti, perché se il vuoto deve rimanere dietro. Oppure c'è quello che ti dice allungami il carico, lo allunghi girandoli le pedane, siccome le pedane non sono quadrate, che sono lunghe da una parte e corte dall'altra, allora girandoli gli allunghi il carico e gli riempi tutto il rimorchio, tutto pieno, sino in fondo, alla sponda di fondo. Ma diciamo quelle sono cose che abbiamo imparato tramite gli autisti, tu devi caricare il carico in confronto a come ti dice l'autista, perché è l'autista che guida, che viaggia, fa chilometri e chilometri con quel carico, capito? E purtroppo lui ti dice a te come deve caricarlo, poi se ne va. Quanto pesa la pedana? Ma una pedana penso che sia un metro e mezzo per un metro, mi sembra, una cosa del genere. 120 per 80, 1200 per 800. Adesso non me lo ricordo più o meno quanto è, però penso che sia una cosa del genere. E la cassa non pesa poco, pesa 1200 kg. Sì. Il rimorchio era, quant'era? 2,40 m? Quanto è il rimorchio? 2,40 t? Io poco ne pratico di rimorchi, Però dovrebbe essere 2,20 m, 2,40 m, così è fra. No. Allora sono 12,60 m, cioè da 12, 12,60 m, 13 e 13,60 m. Ma di larghezza quanto è? 2,40 m? Le pedane ci stanno messe di lungo, due pedane di lungo da una parte o dall'altra. Ce ne sta una messa normale e una girata, ci sta lo stesso, ci sta. Sì, è largo. Perché sì, dovrebbe starci, ci stanno le pedane, due pedane di taglio ci stanno nel rimorchio, quindi dovrebbe essere intorno ai 2,50 m, 2,45 m. Non mi ricordo adesso io quanto è di larghezza, però ci stanno tranquilla, anzi se le metti normali ci avanza anche posto. Esatto, perché ce ne stanno due di lungo, ce ne stanno due messe a 1,20 m di larghezza. Sì. E venite a zenire quante? 12 o 14 erano? No, io ne mettevo 20 e anche 22, se ne giravo 5 da una parte e 5 dall'altra ne mettevo 22. No, ne parlo 12 da una parte e 12 dall'altra. 10, 11 ne potevi mettere. Ma ok. Sta va bene. Sto usando l'MC80, l'MC60, come ieri la modulazione o peggio? No, va bene, ti avrei detto cosa. Io però devo mollare, ragazzi, perché avevo preparato la roba per domani e quindi mi serve un po' di tempo. E la mattina la sveglia presto, quindi vi saluto e niente, sentiamo domani nel caso. Vai, capito? No, va bene la modulazione, Sì, ok, va bene. Preparati tutto. Dai, buonanotte Tino, grazie di essere entrato. Ce la riascoltiamo domani, io domani sono in radio, quando vuoi fare chiamata sai dove trovarmi. Dai, di nuovo buonanotte a te, a Correa Familiare, grazie per essere entrato e buona giornata per domani. Vai Franco, riprendi per i saluti. Kappa, ciao Tino, dai. Buonanotte, buon tutto, sono Tony Del Correa e buona giornata per domani. Ce la riascoltiamo, non ti stancare domani. Ciao. No, sono seduto, quindi vai che. Va bene. E a che pusardo non ti cracca? A che? Sì, vabbè, ma sai, guarda, mi sta piacendo perché è vario, nel senso che non ho voglia di usare l'escavatore, mi prendo la pala, non voglio prendere, mi prendo il camion, quindi faccio quello che voglio. Capo. Guarda, io ho usato per un mese, era anche il mese d'agosto, ho usato la terna. All'inizio mi piaceva, poi a giudizio vino, più imparavo, che a voi non ho imparato nulla, ma te sì, è più poco mi piacia. Quella è, credimi, io l'ho fatto per anni, il ternista, è più difficile dell'escavatore, perché fai determinati lavori che l'escavatore non riesce a fare, e quindi è più difficile. Capo, e infatti io poi non l'ho fatto più. Qualche volta usavo il Bobogat, quello piccolino e basta, ma non è che mi piacevano tante queste cose qua, mi piaceva più il mio carrello. Ok, ciao di nuovo. Meglio, va bene, ciao. Sì. Allora tu dovevi usare l'escavatore che si usa per fare le ferrovie, l'escavatore che si utilizza sui binari. Sì. No, mi hanno messo, lo sai perché mi hanno messo lì? Mi hanno tolto dall'impianto, dal carico, mi hanno tolto e mi hanno messo lì. E mi hanno detto, dice, da domani dice sopra quella laterna. Ha detto, cosa sta dicendo? Guarda, io non l'ho mai usata. Dice, sì che l'hai usata, me l'ha detto tizio. Ha detto, ma l'ho presa così tanto per andare, per non dirle andare a pigliarmi la birra, il gozzo, e già la sai usare, già la sai guidare. Vai, uno guida, l'altro è travagliare. E cosa era? Che sono andato per caricare materiale terra inquinata su dei camion. All'inizio piano piano caricavo, poi agio un poco accelerato, anche più pratica ribigliava e più andava via. All'ultimo non mi piaceva nemmeno, che mi toccava, chissà terra. Prima sappammira, con la penna, e poi con la venna manna, e così si erano dentro dei remorchi. Ha giocato, no, non si può inogano che basi un secondo. Devi fare tre in uno, a chi guidi, tratti la bara e tratti pure la cosa, la penna. Tratti lo braccio, quindi non ti riposino veramente, perché è sempre da fare. E dopo quando vedono che hai quel passo, per esempio adesso carichi 4 rimorchi al giorno e in un giorno ne carichi 3, ti chiamano subito, ma come mai hai caricato 3 rimorchi invece di 4, ne carichi sempre 4, ieri ne ha caricato tre, oppure ne carica di zinco in una D e poi la dia da buona, la dia da buona ne carica di tre. E come mai? E non sanno che magari ha avuto qualche problema, capito? È tutto così, infatti sul lavoro bisogna sempre tenere un passo. Un passo ben definito, capito? Cioè senza andare né troppo e né poco. Poi se uno è padroncino, se uno lavora conto suo, più fai e più ce n'è. Ma puro si travaglia conto d'oro e la salute è sempre salute, bisogna sapere il travaglio a voce. E va bene, va bene. Cosa vuoi ti dica, fra? Ci sono dei mezzi che fanno fare il triplo del lavoro. Io te l'appoggio. Non tu non appoggi niente, perché poi te la spingo. Guarda, io ti dico una cosa, che io all'inizio no, tipologia di lavoro lì non la conoscevo. Io c'avevo un camion dietro l'altro, c'avevo sempre, no? E aggiuvato, a uno l'ha aggiuvato, ma quanti ce ne sono di questi? No, è più di 10, intanto dice non ne caricano. Non ne caricano, aggiuvato, ma forse in presa aggiuto a caricammiri, così si divulgo. Oh, sono arrivato alla una, a mezzodini, mezzodì e mezzo, là, poi si dobbiamo andare a mangiare. Capita, l'aggiù caricato, ed era l'undicesimo. A un suo aggiuvito, l'asse a rivenda, aggiuvato, ma non avete detto che ce n'erano solo 10. Ma visto che ce la fai a caricare, ne hanno mandato altri, avvero, ma rientro più tardi, buono rientro, e dall'indomani aggiù brigata, aggiù cominciato a rallentare a passo, aggiuvato, no, dice no, io cosa, carica già di rondù. Sì, infatti, lo vedi che bisogna prendere, a volte bisogna tenere un passo costante, senza troppa fretta, Ebbè Antone, vai, riprendi. Ehi, sono appena rientrato, buonasera a tutti e due. Non dizeri? A casa di Giovanna ero. No, pensavo che al Bendigolo. No, a casa di Giovanna, adesso vedo se è scato. Intanto stavo caricando le batterie di tutti e due gli apparecchi. Adesso vediamo se riesco a trovare a Pietro, vediamo dov'è, e così vediamo un pochettino se Pietro è a tempio. Affanculo, 2 minuti, aspetta 2 minuti. Ehi Antonio, fa impresa che si occupa Sarra, perché domani mattina per me è lo stesso, la sveglia è presto. Avanti, fra. Ehi, anch'io me la chiudo, perché tutto il giorno sono in radio. Tu lo puoi fare che sei pensionato. Ehi, vabbè, ma mi stacca anche. Il dito. No. Ci mancherebbe altro. Tutto il giorno va bene, noi dobbiamo fare anche quello degli altri. A volte però siete strani, a volte dite non c'è nessuno, a volte vi lamentate perché siete tutto il giorno, a volte si modula di notte perché e poi avete sonno, e poi è troppo tardi, e poi è troppo presto, insomma, cosa volete dalla vita? Un Lucano. A Luciano. Un Lucano. Sì, già, giù compreso io. Cosa era su Iado, Antone? Un Lucano, sono preso anch'io, me, la verità. Alleluia, carità, cazzo. Sto cercando adesso cosa, vediamo se a Sassari o dove in coso. Dove sta facendo un servizio. Se a Sassari, vabbè, non c'è nessun problema. Se a tempio, facciamo la prova, a vedere chi arriva più lontano. Cos'è che vai tu? Passa via l'acqua. Segarese. passa via da qua che c'è un questo in corso. A dove? Ha detto che sono Bradecco, te va, sono Guruci, te va. Lì che sei abbigliato in... vabbè, non posso dire niente io in tedesco, ma siamo già di origine. Simone è tedesca di origine, quindi ti parla tranquillo. Niente, rimacchi di cadena. Adesso guarda. Un macco di cadena è variato in casa, pensate pinghinoso mi. Non è inteso variato in casa, pensate pinghinoso visto. Vai, vai. Ma non è bingo mi sa radio, ha tutta cagata e iadini. No, lì c'è Antonello che va che coso registrato. Che io, ma sei scemo. No, no, non è Antonello, mi fa segnare oscillante. Se l'avessi avuto, l'avessi accuto. Eh? Non credo proprio, va. Ero giù a Giovanna, figurati tu. No, no, no, no, no, Fra, non è Antonello, mi arriva a segnare oscillante, e ha creduto a montare i gaddini. Capo, non me ne ero accorto del segnale di Antonello, non me ne ero accorto. Capo, mi arriva a 9:20 qua. Capistrofen. Guarda che se vuoi parlare in tedesco, parla la mia ragazza in tedesco. È lei che è di Bolzano, non sono io, capito? Quindi io proprio tedesco non capisco un cazzo, ma lei già lo capisce, ci parla pure. Noi non avremo Gattofen, noi avremo Battati. Io la verità non sento quello, se no avrei chiamato la Simone e avrei detto, va, rispondigli tu, Simone, non c'è, gli avrei risposto lei. No, è uno che c'ha la gallina in casa, uno sporcaccione che c'ha la gallina in casa, quindi mette il gallo, chicchi ricchi. Va bene, va bene. E ci avesse gli arrivo. Kackstofen! Tu pensi ci abbia avuto la vacca? La vacca, magari la moglie. La vacca sento gas e pissa che ti abbiamo fatto. La mozzarella di bufala. Oh oh. Antonio, la mozzarella di bufala c'ha quello dentro casa. Io fa il suo ciao, la mozzarella di bufala. Vabbè, poi comunque è quest'ora che inizia la preparazione, anche ieri sera mi stava uguale. Adesso alle 8:30, incomincia la preparazione siciliana, eccetera, eccetera. Dopodiché cambia, hai capito? Intente, Giovanni, la iadina. Capo, è vabbè, dai, non è nulla da... siamo a perdere. Tanto non ci dà fastidio a noi. Cosa stavi dicendo, Antone? Cosa vuoi provare? Tortise! Sodiare! Anoga! Sassa di sa! Già due! Già abbiamo chiesto che stai dicendo! Dai! Ah, è uccidente! Vai via, tu e i galli, non ne vogliamo uova! Ce le abbiamo le uova! Passa via, cane brutto! Vai, mai abbattati. Passa via, cane brutto. Antone, inteso cosa ti ha detto? A me non mi ha detto niente, che non ho capito un cazzo la verità di quello che ciò che ha detto. Comunque sia. Se la bobbia pure in culo. Mi sembra che sto per farla a Pietro, così a me la mettere in PMR, aspetta. Due minuti. Il tedesco ti sta chiamando? Tu tedesco che ci ha messo? Sì, se c'è. Se ci amo andare giù, Antone, risponditi da casa. Come ci vuoi fare? Ma che c'è da vecchia, che ciura, come ti mai? Disonore anticipo. Capo. Però se ne è pesato un ghizzo, banda a mugni. Italia, buonasera, avanti, le galline chiuse le hai. Actungo. Scoffen, scheiße. A te a tua madre, che è cugina con tuo padre. E sei nato tu, che sei un figlio di cugini, sei un incesto, brutto pure. Passa via. Io non sento nemmeno, ma se avessi sentito ti avrei fatto parlare con Simona. Aspetta, cos'è? Ti avete fatto un paio di risate? No, no, già lo sento, ha spiegato un pochino, infatti glielo dico. Gli dico, aspetta, glielo dico, eh. Aspetta, allora, eccolo qua. Tua mamma, tu tedesco, tua mamma è cugina con tuo babbo e sei nato tu, capito? Sei un incesto, sei un incrocio tra un gabinetto e un bidet, capito? Sei figlio di nessuno. Non lo conosce il mio bidet. Pervertito drogato. Marco, ti capisce quello, fregate. Vedi che capisce. Drogato, Hitler gay, drogato, Hitler gay. Ma lascia ricca, lasciagli stare che... lascia perdere. Antonio, bestemmialo. È figlio di pecora. Antonio, rispondi a quel tedesco. Aspetta, non lo so. Forse me non mi sente. Attenta Germania, Germania, se ascolti qua, l'isola sarda, Gambio. Arreghe, arreghe. Hola, hola, hola, my friend, escuchi station Falima Italy, Sardinia. Già si intende, sai? Attento Germania, se ascolti la pecora, beh, tua mamma pecora Germania. Non te non so cosa ha detto. Il suo grandissimo figlio di una capra. Yeah. Stai zitto, figlio di capra. Cornuto. Vai in piccadi. Scheiße, scheiße. Cosa vuol dire scheiße? Pezzo di benda. Davvero? Ehi. Scheiße, scheiße. Scheiße. Ehi, grazie, non ho più. Beh, ragazzi, io mi saluto e ce la riascoltiamo tutte le prossimine. Lasciate stare gli amici tedeschi che anche loro stanno parlando per i fatti loro. Ciao, buonanotte a tutti, ce la riascoltiamo. Ia ia, va bene fra, anch'io chiudo dai, domani mattina la sveglia è presto. Ciao fra, buonanotte a te, a cuore familiare, riprendi Antonio. Ia, ciao Franco, ciao. Non c'è problema. Buonanotte a tutti e due, statemi bene e non c'è nessun problema. Ehi, ciao, e lasciate stare gli amici tedeschi, che aspetta, che anche loro stanno passando un'ora come si deve. Ciao a tutti, ciao anche alla Germania. Ciao ciao. Cazzo, un'ora come si deve. Cazzo, se rispondi così. Cocco. Va bene, non c'è problema. Io ma come sapevo che è successo questo casino, ma comunque sia. Vabbè, altro non ti posso dire. L'unica persona che parla tedesco è la mia ragazza. E la parla bene, perché è di Bolzano, quindi figurati tu. Vabbè, se sei di Bolzano non fa video tedesco. Ciao ciao. Ciao Fra, ciao. Ciao Antonio, sentiamo le prossime. Buonanotte a te, QRA lo stesso. Ciao. E ciao Gavi. Ciao Fra, ci sentiamo. Oh, stop your mouth, girl. Achtung, gut, Italien. Hallo, Freddy.